aller Frühe. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unserem Feind. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unserem Feind. Una mattina mi sono alzato. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. E sono andato e ho trovato, e ho trovato l'invasor. Und wenn ich sterbe, o ihr Genossen, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Wenn ich sterbe, o ihr Genossen, bringt mich dann zur letzten Ruhe. Wenn ich sterbe, o ihr Genossen, bringt mich dann zur letzten Ruhe. E se io muoio, partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Der kleinen Blume. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. In den Schatten der kleinen Blume, in die Berge bringt mich dann. In den Schatten der kleinen Blume, in die Berge bringt mich dann. E tutti quelli che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fiore. E tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fiore. Und die Leute, die gehen vorüber. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Und die Leute, die gehen vorüber, sehen die kleine Blume stehen. Und die Leute, die gehen vorüber, sehen die kleine Blume stehen. E questo è il fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morte per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morte per la libertà.